Dark Gang, Gang Bang, Gang, Cyclops, Solbit Brack, Sparswear, Air Max, Comfort, Calvin Klein, Klein, Tryhard, Football, tanti contatti quindi ho due iPhone, l'orologio in mano, troppo tempo, sto seguendo i soldi come un touchdown. Soldi in mano, te lo assegni, il mio culo sopra la Bentley, Bing Bang, sto fumando, ferro in mano come Rambo. Piscio sopra gli hater, Supreme come uno skater, pistola come un ranger, rockstar come Elvis Presley, rockstar come Jimmy Hendrix, scelta con le barche come l'Iron Maiden. Hanno problemi con la mia swagger, si faccio 37 non t'offendere, chiamo Donny, vieni a prendere. Fatto come Mick Jagger, fai finta come un wrestler, bloccato come un emo, sto pensando soltanto gli euro. Sto pensando soltanto gli euro, a casa c'è mia madre quindi la porto in albergo. Portando droga in ogni posto, ladro a droga mi vuole morto. Soldi su ogni cosa, sai che siamo la moda. E lo sai che siamo Roma, 777 su ogni casa. Dark Gang, Gang Bang, Cyclops, sul beat brack, Sparswear, Air Max, Comfort, Calvin Klein, Klein, Tryhard, Football, tanti contatti quindi ho due iPhone, l'orologio in mano, troppo tempo, sto seguendo i soldi come un touchdown. Soldi in mano, te lo assegni, il mio culo sopra una Bentley, Big Bumble, sto fumando, ferro in mano come Rambo. Piscio sopra gli hater, Supreme come uno skater, pistola come un ranger, rockstar come Elvis Presley.